La situazione per quanto riguarda le relazioni sindacali col Comune di Ferrara è una situazione che da forse troppo tempo viene caratterizzata da relazioni abbastanza scarse, non certo per la cattiva volontà delle organizzazioni sindacali, naturalmente assolutamente per quanto riguarda la funzione pubblica della CGIL di Ferrara, considerato che in questi mesi, lunghi mesi, abbiamo sempre cercato comunque un confronto con l'unico obiettivo, quello di costruire non solo relazioni buone ma anche proficue. L'idea è quella di costruire un tavolo dove le problematiche possono essere affrontate e naturalmente i percorsi possono essere condivisi, cosa che in questo momento con il Comune di Ferrara, devo dire, continua a non esserci. C'è la questione sul tavolo del salario accessorio? Una delle questioni, è sicuramente una questione importante, è quella del salario accessorio, ovvero quella parte di risorse che l'amministrazione mette a disposizione per riuscire a valorizzare il personale attraverso il finanziamento di istituti importanti, tra i quali la produttività, che da anni purtroppo per il Comune di Ferrara è abbastanza scarsa come quantità, e soprattutto anche quegli istituti utili a premiare e a valorizzare la carriera delle persone, come le progressioni economiche orizzontali che quest'anno il Comune di Ferrara per ora intenderebbe non finanziare, e noi su questo siamo molto contrari, considerato che è quell'istituto che garantisce a tutti i dipendenti pubblici, che oggi sono tra i più poveri dal punto di vista salariale, la possibilità di vedersi riconosciuto un incremento salariale che diventa consolidato dai prossimi anni. Quindi è uno degli elementi più importanti per quanto riguarda la valorizzazione del personale e delle competenze che questo ha acquisito, e su questo noi continuiamo naturalmente a far valere ragioni diversamente dalle quali il Comune di Ferrara non ne ha altrettanto importanti da poterci negare la possibilità di veder finanziato anche questo istituto per l'anno 2025. Cosa dice il Comune di Ferrara, che non ha le risorse in bilancio? Il Comune di Ferrara dice che le risorse che ha a disposizione sul fondo potrebbero essere risorse che, se utilizzate per questo istituto, potrebbero cristallizzarsi mettendo in difficoltà il fondo per poter finanziare altri istituti, cosa che nella realtà non è vera, perché noi naturalmente abbiamo a disposizione i quadri economici. Il Comune di Ferrara anche per l'anno 2025 ha disponibilità di risorse da poter destinare al finanziamento di questo istituto in maniera continuativa. Naturalmente il Comune di Ferrara ha un'altra questione che non vuole affrontare, ovvero l'applicazione del decreto PA, che è entrato in vigore nell'aprile di quest'anno, che consentirebbe ancora di più di poter valorizzare questo fondo e di poter andare nella direzione auspicata da noi di consolidare ancora di più l'istituto delle progressioni economiche orizzontali. Il Comune di Ferrara è nelle condizioni di applicare il decreto PA, cioè quella norma che permette ai comuni virtuosi di integrare il fondo del salario accessorio. Il potenziale del Comune di Ferrara è molto alto per poter andare in quella direzione. Naturalmente noi stiamo chiedendo di poterlo anche finanziare gradualmente da qui ai prossimi anni, cosa che stanno facendo tantissimi comuni italiani, ma il Comune di Ferrara ritiene che questa cosa oggi non sia ancora possibile. Quindi il nostro giudizio è che il Comune di Ferrara fa una scelta politica precisa, pur avendo la possibilità di utilizzare questo strumento, che non è uno strumento sindacale, perché è uno strumento che ha adottato il Ministero della Funzione Pubblica, significa che il Comune di Ferrara oggi intende utilizzare risorse in altro modo, e non sicuramente per poter valorizzare quel fondo che automaticamente riesce a garantire a tutti i dipendenti la possibilità di vedersi riconosciuto un salario accessorio più adeguato alla qualità del lavoro che quotidianamente questi dipendenti offrono per i servizi che oggi il Comune di Ferrara dà ai propri cittadini, imprese e associazioni. Ho letto che state svolgendo assemblee sindacali, come procederà poi la mobilitazione? Allora, le assemblee sindacali sono iniziate ieri. Alle assemblee sindacali noi stiamo andando raccontando tutta la verità di quello che è successo in questi mesi, e stiamo chiedendo a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori di darci il mandato di continuare a fare una contrattazione che sia degna di chiamarsi così, ovvero avere la parte pubblica disponibile ad ascoltarci e a costruire assieme quello che in gergo si può chiamare punto di caduta soddisfacente, e stiamo chiedendo alla lavoratrice e lavoratori di poter fare un passo in più, se questo non avviene, ovvero aprire lo stato di agitazione chiedendo un tavolo alla prefettura di Ferrara dove cercare un'interlocuzione che dovrebbe, a nostro avviso, dover essere più proficua anche senza dover arrivare là. Ma gli strumenti che abbiamo sono questi, quindi al termine di questa assemblea tireremo le somme e cercheremo di capire con quanta forza noi intendiamo aprire anche altri tavoli, naturalmente non certo per fare strumentalmente il nostro mestiere, ma per poterlo fare nel miglior modo possibile, che significa tutelare i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori del Comune di Ferrara. La prima assemblea si è tenuta ieri, è andata molto bene, anche in termini di partecipazione. Già da lì il mandato è stato forte per andare, se necessario, in quella direzione.